Sei capace tu a cambiare la gomma? Ma figurati cosa sono capace, guarda. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda. Voi non avete problemi. C'è un ascoltatore che dice: che bella via che avete trovato per risparmiare, Deborah e Nicoletta. Fare la spesa con la carta di credito altrui. Che cosa c'è di più bello? Adesso dovete farci questa gentilezza con silenzio, consegnare le cuffie ad Antonio Caielli e Mirko Labella, che adesso altrettanto silenziosamente si avvicineranno. Invece alle... che changer la femme, changer la cuffia. La cuffia. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cioè, tu mi vuoi dire che in 4 anni abbiamo guadagnato solo questa miseria? Dai, va, non scherziamo, va, dai, per piacere. Non è poco. E poi, sa, tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Ma che difficoltà? La crisi, le tasse. Tasse? Non nominare mai più quella parola in mia presenza, ma che tasse e tasse? Ma, signor Cetto, io qualche migliaio d'euro lo devo dichiarare, per non destare sospetti. Capito, no? Un po' di tasse. Dobbiamo pagare, mi creda. Tasse? Ma signore, ma che sta succedendo qua? Uno manca 4 anni e siete usciti tutti di testa. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. E invece le preoccupazioni per le tasse non vanno proprio mai in vacanza, anzi spesso rischiamo di portarcele anche al mare o in montagne, particolarmente preoccupati, proprio quindi in maniera totalmente contraria, eccetto la qualunque, sono i contribuenti che sono indietro con il versamento di tasse e contributi, una difficoltà che negli ultimi anni di crisi hanno accumulato la sorte di molte, moltissime persone, uomini, donne, lavoratori autonomi e dipendenti, pensionati e giovani. Pensate che nei primi 6 mesi di quest'anno Equitalia ha recuperato 3 miliardi e 700 milioni di euro di tasse, imposte, sanzioni e altri tributi versati dai vari enti pubblici creditori, quindi Agenzia delle Entrate, INPS e non solo. E in questo contesto rimane molto utilizzato dai contribuenti lo strumento delle dilazioni di pagamento. Al 30 giugno di quest'anno risultavano attive 2 milioni e 300 mila rateazioni per un ammontare di circa 25 miliardi e mezzo di euro. Però sono dei numeri, sì, che fanno girare la testa. Almeno da questo punto di vista siamo di fronte, Deborah, a un'estate, sì, calda, ma come anticipavi tu è un tema davvero complicato. Per fortuna abbiamo un aiuto, il Sole 24 Ore ci dà una mano. Da martedì infatti e per tutto il mese di agosto è in edicola il dizionario pratico per la famiglia, 25 puntate di 2 pagine ciascuna, per mettere, per così dire, a fuoco in 50 appuntamenti e soprattutto sempre con un linguaggio semplice e chiaro le novità legislative di mercato e quindi le opportunità, le scadenze, le scelte che tutti, chi più chi meno, saremo chiamati a fare nei prossimi mesi. Ovviamente si parlerà anche di tasse. Mm-hmm. Per molti una circostanza insopportabile, anche perché abbiamo visto in questi anni come le tecniche e le strategie di recupero da parte dell'amministrazione fiscale siano state, diciamo così, rigide. Un tantino rigide. Dai, rigiduce, repressive, senza nessuna possibilità di dialogo. Usiamo questo. Ma solo coercitive e anche sorde alla necessità dei contribuenti, insomma, Deborah. È vero, il fisco però poi, come dire, anche un po' consapevole delle difficoltà in cui ha messo molti italiani, ha cercato di darsi un volto più umano, anche se qualcuno ha riso molto rispetto a questa espressione. Così si sono intensificate le iniziative per permettere ai ritardatari delle tasse, loro malgrado, di rimettersi in regola con i versamenti attraverso la rateizzazione o rateazione, chiamatela come volete, appunto, con i numeri che dicevamo prima. Tra l'altro, Deborah, a proposito di darsi un volto, sì, più umano, ora questo volto è un volto che ci piace, rosa, sì, soprattutto. Rossella Orlandi è la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate. Oggi appare anche un'intervista sul Sole 24 Ore in cui promette una guerra senza sconti alle frodi fiscali. E distinguendo un po', facendo un distinguo tra chi fa l'evasore di professione e chi invece commette solo errori in buona fede. Questa mi sembra che sia una distinzione che fondamentale, direi. Ecco. Vedremo allora, cara Deborah, come una guida femminile saprà cambiare l'Agenzia delle Entrate. Secondo me la saprà cambiare sicuramente in meglio. Io faccio il tifo per lei. Proveremo anche magari ad intervistarla e a farla venire a Cuore Denari. Secondo me verrebbe volentieri, sono certa. Vero? Dai. Tra l'altro la dottoressa Orlandi è anche al lavoro per la dichiarazione dei redditi precompilata e quindi ci sta già preparando argomenti di cui discutere nella prossima stagione appunto del nostro programma. Lavora per noi, vedi? Bravissima. Tornando invece al nostro tema di partenza, e cioè la riscossione delle tasse e l'attività di Equitalia, e ai numeri che vi raccontavamo prima, questi celano anche un'altra tendenza che merita di essere commentata. Pensate che oltre il 70% di quei oltre 2 milioni di rateizzazioni in corso riguarda somme inferiori a 5.000 euro. Per molti questo è un chiaro segnale della crisi, che ancora morde, anche se invece i commercialisti, i professionisti del fisco sostengono che la percentuale è così alta perché per cifre contenute la rateizzazione avviene praticamente in modo automatico. Si richiede e questa opportunità viene concessa. Tema che oggi affrontiamo con la dottoressa Rosanna Acerno, commercialista ed esperta di questioni fiscali per il Sole 24 Ore, che sarà oggi a disposizione fino alle 11.45 dei nostri ascoltatori che vorranno chiamare all'800 24 00 24. Intanto la salutiamo, dottoressa Acerno, buongiorno. Buongiorno. E allora le domande che gli ascoltatori possono fare, ma che noi gireremo alla dottoressa Acerno, verteranno sull'iter per chiedere la dilazione del pagamento delle tasse. Vi è oscuro? Secondo voi è complicato? Non sapete se siete nel diritto di chiedere questa flessibilità? Infatti. Raccontateci la vostra storia. Invece, care amiche e cari amici, nella seconda parte della trasmissione, dopo aver parlato di tasse, cercheremo, come si dice, di recuperare un po' di benessere. Allora diamoci da fare, bastano dei piccoli gesti e anche un po' di attenzione. Intanto diteci dove vi trovate, qual è il vostro stato d'animo, come vi siete svegliati stamattina e che giornata vi aspetta. Poi cercate di capire se siete contratti, tesi, rilassati oppure morbidi, flessibili. Quello che vogliamo suggerirvi è di lasciar parlare il vostro corpo e di invitarvi ad ascoltarlo. Sentite il collo, le spalle, il bacino, le gambe, i piedi. Se siete seduti invece controllate i punti d'appoggio e poi chiamateci 800 24 00 24. Avvertite tensioni, dolore, siete impacciati, come un po' arrugginiti? Allora componete il nostro numero verde, perché basta una telefonata per cambiare posizione, questo è vero, ma anche stato d'animo, e questo aiuta. Mi raccomando, tenete in tutto questo la fronte rilassata, che è una piccola azione, Deborah lo sta già facendo, capace di portare dei grandi risultati, perché mantenendo la fronte rilassata è davvero difficile pensare in modo negativo, e i maestri insegnano che agendo sul corpo abbiamo la possibilità di influire sulla nostra mente. Allora, perché lasciarci scappare questa occasione proprio oggi in cui parliamo di tasse, e proprio oggi in cui avremo modo di parlare nella seconda parte della trasmissione delle tensioni che accumuliamo proprio nella nostra schiena? 800 24 00 24. Te presento la nuova ballada, a un ritmo davvero originale ed è la prima asuendo sociale, perché io penso che è necessario fare qualcosa per le casse dell'erario, e voglio dire ai ragazzi e alle ragazze, bisogna pagare le tasse. Si tiene la barca, la roba de marca, la macchina del lusso, la dinera dell'incasso. Sì, va tutto dichiarato. E allora, tra l'altro, anche se può sembrare un tema che non si concilia tanto con il clima estivo, perché almeno in queste settimane vorremmo dimenticarci di bollette, rate, tasse, mutui, e chi più ne ha più ne mette, in realtà ci sono scadenze che vanno ben ricordate. Per esempio, domani, giovedì 31 luglio, scade il termine per aderire alla nuova opportunità riservata a chi per legge ha perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno dello scorso anno. Dottoressa Acerno, ci spiega meglio questa scadenza e chi deve stare attento a non dimenticarsene? Sì, perfetto. Intanto diciamo che domani, salvo proroghe, dovrebbe essere l'ultimo giorno. E possono accedere a questo nuovo beneficio soltanto coloro che erano già decaduti da una vecchia dilazione che avevano, diciamo, ottenuto da Equitalia, e che coloro che erano decaduti nel 2013, cioè entro il 30 giugno 2013. E queste persone o queste società dovranno affrettarsi quindi a chiedere questa nuova radiazione, perché obiettivamente rappresenta una ottima opportunità per bloccare eventuali azioni da parte di Equitalia se non sono già state intraprese. Mm. Azioni di che tipo? Fermo amministrativo? Azioni fermo come dire? Sì, quello dipende ovviamente sia dalla cifra diciamo dovuta, certo, e soprattutto poi dipende dalla discrezionalità di Equitalia, anche se ricordiamo ci sono state nel corso degli anni delle norme che in qualche modo diciamo hanno favorito un po' il contribuente debitore che non è riuscito, certo, a pagare. Per cui per chi non era più in regola con i pagamenti a rate il 22 giugno dello scorso anno e adesso vuole ripristinare un versamento rateizzato, domani, entro domani appunto, deve fare una regolare domanda all'amministrazione fiscale, poi magari su questo tema ci torneremo nel corso della puntata. Ma dottoressa Cerno, mi ha incuriosito un po' un vademecum che ha diffuso proprio in questi giorni Equitalia, un vademecum per i contribuenti che hanno bisogno di versare le tasse a rate. Allora io direi di replicare lo stesso lavoro con lei questa mattina. Intanto le chiedo però, proprio anche da professionista, quali sono i motivi più diffusi per cui si chiede di rateizzare gli impegni fiscali? Beh, sicuramente una crisi che sta interessando tutti noi e quindi ovviamente molti contribuenti che non sono riusciti a pagare le imposte e che vogliono farlo, quindi volendosi mettere in regola, preferiscono sicuramente una dilazione che, lo ricordiamo, presso Equitalia è automatica fino a un debito di 50.000 euro, quindi sostanzialmente Equitalia non provvede ad esaminare documentazione fino a 50.000 euro, quindi la dilazione consente sicuramente di pagare con rate mensili di importo minimo pari a 100 euro il debito dovuto e, come dicevo, soprattutto a bloccare eventuali azioni da parte di Equitalia, quindi ipoteche, fermi amministrativi, quindi le ganasce fiscali o addirittura misure esecutive come il pignoramento, per, certo, esempio degli stipendi. Mm-hmm. Ma dottoressa, di quanto deve essere il debito pregresso per avere questo diritto a pagare a rate? Ma guardi, non c'è un importo preciso, cioè sostanzialmente anche un debito di 1.000 euro può essere rateizzato. Come le dicevo però, sia per contribuenti persone fisiche che per società, mm-hmm, il limite che Equitalia diciamo ha imposto è quello di 50.000 euro. Mm. Quindi sostanzialmente se un contribuente persona fisica, ad esempio, ha degli avvisi di accertamento non pagati e quindi delle cartelle sostanzialmente complessivamente fino a 50.000 euro, si può recare presso uno dei qualsiasi sportelli di Equitalia, chiedere la rateazione, Equitalia concederà automaticamente la rateazione. Mm. Senza valutare ulteriori, diciamo, certo, situazioni. No, tra l'altro adesso glielo faremo sentire, ci sono già degli ascoltatori che stanno, sì, testimoniando che, mm, la domanda è stata accolta in termini immediati, non c'è stato bisogno di impostare nessuna istruttoria, ma ci sono dei casi in cui invece l'amministrazione fiscale, anche se la cifra avrebbe come dire, le caratteristiche per darci il diritto di rateizzare, ci sono dei casi in cui l'amministrazione fiscale dice no, dottoressa, sì, Cerno? Sì, lo dice sopra i 50.000 euro, ecco, perché sopra i 50.000 euro sono richieste apposite documentazioni. Ecco, poi ci torniamo perché c'è un'altra vicenda che si è aperta in questi giorni, ma per cifre inferiori viene accettata la direzione e basta, non ci sono mai casi in cui... Viene accettata e basta, ovviamente se si richiede poi una proroga o un cambio del piano di ammortamento, voglio dire, inizialmente si può stabilire, ad esempio, perché Equitalia diciamo in base ad indici per evitare diciamo preferenze, ovviamente cerca di comportarsi in maniera uguale per tutti, nei confronti di tutti i contribuenti, però può capitare che nel corso diciamo della dilazione il contribuente vede peggiorare la propria situazione, esatto, e quindi in quel caso può avere necessità di rinegoziare di nuovo, esatto, e dovrà dimostrare sicuramente il suo stato di difficoltà, certo, quindi in quel caso forse si possono avere il sopravvenuto peggioramento della situazione economica, o supponiamo che il debito nel frattempo sia aumentato, certo, per altre situazioni, quindi in quel caso diciamo è... Mm-hmm. Sicuramente ci possono essere delle difficoltà nel, mm-hmm, concedere la rateazione. Mm-hmm. 800 24 00 24 per i vostri dubbi, ma anche per raccontare le vostre storie. Andiamo a Bologna, c'è Antonio che ci aspetta. Buongiorno Antonio e benvenuto. buongiorno. Buongiorno. Io la mia esperienza è di oggi, perché proprio oggi ho rateizzato con l'Agenzia delle Entrate un importo di 1.300 euro più o meno e non ho avuto nessun problema. L'unica inconveniente è stato il mio commercialista che mi ha mandato all'Agenzia delle Entrate, mentre deve essere, cioè, mentre è il commercialista che può fare benissimo i vari moduli per mannaggia Antonio, non l'è venuto tanto incontro, diciamo così, il suo commercialista. Volta, peccato, vabbè, ho fatto un viaggio in più, ma comunque l'ho fatta praticamente in 6 rate ogni 3 mesi, tutto qua. No, tra l'altro, dottoressa Cerno, si può fare, si deve andare fisicamente presso uno sportello, in questo caso di Equitalia o dell'Agenzia delle Entrate, perché chiaramente i due istituti sono diversi. Equitalia è proprio l'agente della riscossione, e in questo caso, secondo lei, insomma, Antonio ha fatto bene o il commercialista si poteva impegnare un po' di più ad aiutarlo? Beh, quello dipende, ovviamente. Io sono commercialista. Lei lo fa per i suoi clienti oppure? Beh, io di solito lo faccio, diciamo così, sì. Lo faccio perché preferisco comunque, diciamo, evito sempre che il contribuente si rechi personalmente, più che altro perché preferisco che tra tecnici, diciamo, è sempre preferibile che un tecnico vada presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e quindi preveda questa trattazione. Anche se, diciamo, l'ascoltatore, nel caso dell'ascoltatore è un caso diverso, come ha detto lui, perché si è recato direttamente in Agenzia delle Entrate, dove l'Agenzia delle Entrate appunto prevede una rateazione automatica. Ovviamente anche lì è più conveniente, perché si evita di pagare l'aggio famoso della riscossione pari all'8%, lo ricordiamo, e soprattutto gli interessi di mora. Esatto, poi andremo anche all'elenco degli oneri che si devono versare qualora appunto si chieda la rateazione. Per quello che riguarda invece il tema che abbiamo affrontato prima, cioè la questione di presentare entro il 31 luglio una nuova domanda di rateazione per tutti quei contribuenti che avevano interrotto il pagamento al 22 giugno dell'anno scorso, in questo caso leggo che i moduli per fare questa domanda li possiamo anche trovare sul sito internet del gruppo Equitalia alla sezione rateizzare, per cui insomma, per chi volesse quantomeno informarsi su tutto questo, trova le informazioni su internet. C'è un'altra vicenda, dottoressa Cerno, che ha davvero dell'incredibile, che sta emergendo proprio in questi giorni. Proprio lei ne ha scritto sul Sole 24 Ore ieri. In pratica ci sono molti contribuenti che hanno arretrati con il fisco molto importanti, superiori a 50.000 euro, quindi parliamo prevalentemente di aziende, società di capitali, e se devono chiedere la rateazione, in pratica il fisco sta obbligando loro a predisporre una documentazione economico-patrimoniale del tutto nuova, perché non è più sufficiente il bilancio chiuso al dicembre 2013. Che portata ha questa notizia e quanto mette, dottoressa Cerno, in difficoltà le aziende che rientrano in questi parametri? Guardi, purtroppo le devo dire che mette molto in difficoltà, e non solo per una questione di costi. Io ho affrontato, diciamo, il tema insieme ad altri professionisti, perché proprio in questo periodo, diciamo, che ci stiamo scontrando con questa dura realtà. In verità bisogna precisare che Equitalia da sempre ha previsto questa regola, quindi non è una nuova regola. Parliamo soprattutto di, appunto, come le dicevo, di debiti sopra i 50.000 euro, ed interessa questa regola sia le persone fisiche che le società. Per quanto riguarda le società, siano esse di capitali, quindi una piccola SRL o anche una SPA, supponiamo, che si trova con un debito complessivo, parlo di INPS, non soltanto quindi imposte, ma anche tributi, anche, non lo so, altri enti locali che, diciamo, vantano un credito nei confronti di queste società. Quindi supponiamo che questo debito superi i 50.000 euro. Equitalia, come le dicevo, non concede automaticamente la dilazione, perché comunque abbiamo detto che deve verificare determinate situazioni. Queste situazioni sono o gli indici di bilancio, quindi sostanzialmente la regola generale è che la società che vuole rateizzare presenta degli indici di bilancio, il proprio bilancio approvato, e quindi, diciamo, in base a quegli indici si prevede un piano di ammortamento. La verità però qual è? Che se, come in questo periodo accade, il bilancio 2013 è stato chiuso il 31 dicembre e quindi sono passati più di 6 mesi dalla chiusura del bilancio, Equitalia non accetta più quel bilancio, ma vuole un nuovo bilancio, sostanzialmente un bilancio infrannuale per l'anno 2014, a 15 giorni prima della presentazione della richiesta di dilazione. Quindi sostanzialmente ad oggi dovrebbe essere un bilancio al 15 luglio. ovviamente un bilancio che deve essere poi approvato dall'assemblea. Allora il problema che si pone qual è? Al di là dei costi, perché bisogna interessare un professionista che deve fare i calcoli, certo, e deve fare tutte queste cose, in più c'è un'assemblea che deve essere convocata, un'assemblea dei soci, o comunque ci deve essere l'organo di controllo, quindi il collegio sindacale, che diciamo attesti la veridicità di quei dati. Sostanzialmente abbiamo notato tra i nostri clienti che è veramente impossibile chiedere una dilazione per debiti sopra i 50.000 euro. Quindi queste società sono costrette a pagare per intero il debito, sì, no? Per evitare appunto eventuali azioni da parte di Equitalia. Certo. E quindi insomma le società si piegano in qualche maniera al volere del fisco pur di non sopportare tutti gli oneri di una nuova convocazione di un'assemblea dei soci, sì, prima della elaborazione di un bilancio nuovo di zecca praticamente. Esattamente, eh. Poi consideri anche un altro problema, perché possiamo dire sia che le società possono avere un debito ormai definito, definitivo, ma ci sono anche delle società che hanno dei contenziosi in corso. Vale a dire, non sono d'accordo con le pretese del fisco e quindi ad esempio stanno affrontando dei ricorsi e in attesa di giudizio però quel debito, lei sa che c'è diciamo la riscossione anche in pendenza di giudizio, vale, sì, a dire anche se ha un ricorso in piedi, in attesa che la sentenza del, diciamo, del collegio, della commissione tributaria non venga resa definitiva, comunque diciamo la società deve pagare delle imposte. In quel caso diciamo che anche per quello quindi c'è la non definitività del tributo da versare e nonostante ciò comunque con l'impossibilità di chiedere la rateazione. Ma mamma mia, la vedo molto complicata. Sì, per molte aziende tu pensa gestire tutti questi contenziosi e contempo mandare avanti la normale attività, gestire i dipendenti, gli stipendi, le produzioni, pensa un po', no? 800 24 00 24, raccogliamo le vostre storie, i vostri dubbi, le vostre domande al nostro numero verde, ci state anche scrivendo al 349 238 6666, ma vi invitiamo come sempre a seguirci su Facebook e su Twitter. Cuore e denari. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Pensare positivo aiuta, aiuta a stare bene e non è solo un modo di dire. Numerose ricerche hanno dimostrato una relazione molto stretta tra buona salute e atteggiamento mentale positivo. Allora, se parlare di tasse vi mette di cattivo umore, vi stressa, vi irrigidisce, avete una buona oggi ragione per cercare di correggere il tiro e migliorare l'umore, chiamateci e fatelo soprattutto se avete la schiena bloccata, il collo dolente, la sensazione di essere tutti rotti. Non date, mi raccomando, la colpa al tempo. È provato, non c'entra nulla, o almeno c'entra poco. Tra l'altro sul tempo noi abbiamo poco margine d'azione, invece per il benessere della nostra schiena e delle nostre articolazioni possiamo fare tanto e lo faremo con l'aiuto di un grande esperto che sarà tra poco in studio con noi, il professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale. Come a dire, siamo in ottime mani. 800 24 0024. Lei è il signor Bonocore? Sì. È sfuggito a Diabolicus, ma a me non sfuggirà. Ma scusi, lei è? Sono l'agente delle tasse. I tartassati con Totò, tra l'altro non mi ricordo se è andato in onda ieri sera sulla 7 o stasera va in onda, ho visto il trailer ma adesso mi sfugge. Stasera. Ci dicono dalla regia, Laura Banassi, attentissima, ma noi avevamo un appuntamento ma con sì, un poverino, uomo, altrimenti ma no, poverino, penserà che... No, lui non è poverino, lui ci è un fortunato, un po' desiderare. Perché chiama Cuore Denari, ha capito che questa è la sua trasmissione. Massimiliano buongiorno. Da Livorno, buongiorno, peraltro Livorno è una città che ci ama molto e noi ne siamo ben contenti. Anche se, il tema di stamattina diciamo non è che proprio ci faccia troppo ben volere, comunque. Ma noi prima li bastoniamo e poi li facciamo ritornare in forma, quindi Massimiliano. A schiena come stiamo? Ma non benissimo perché io faccio l'agente di commercio, quindi sono sempre in macchina. Sempre in però, macchina. Questo, consigli anche per lei, a tra poco. E allora, ci dica. Certamente. Allora, la mia domanda è questa. Una cartella esattoriale, fatta la retizzazione, diciamo, pagato per un errore di Equitalia, pagato la parte relativa al tributo non versato, ma non pagate gli interessi e le more. Esiste un tempo di prescrizione di questa cosa? Cioè, io finito di pagare il debito, non ho pagato interessi e more. Dall'interruzione perché si sentiva nella ragione di non farlo, Massimiliano? Perché riteneva perché a quel tempo non ero in difficoltà e quindi non avevo continuato, certo. avevo pagato perché loro dividono, loro ti fanno la rateizzazione in 12 rate e poi ti dicono poi devi pagare subito gli interessi. Gli interessi non erano gli interessi e le more non erano stati richiesti all'inizio e quindi io ho continuato a pagare la rata che era riportata sulla documentazione senza pagare, certo. Ovviamente, perché il conteggio non sarebbe stato. Abbiamo capito, ecco. Massimiliano, andiamo subito ad interpellare la dottoressa Cerno. Ci sono diversi spunti da questa domanda. Il primo, dottoressa Cerno, è: per fare la rateizzazione, chiamiamola come più ci piace, dobbiamo aspettare la cartella esattoriale o possiamo chiederla intanto in via preventiva? Sappiamo che saremo in difficoltà con il rispetto degli impegni fiscali e quindi chiediamo di, oppure aspettiamo appunto questo documento. E appunto Massimiliano chiede se per questi interessi e more non pagate c'è una possibilità che cadano in prescrizione e quindi non debba più nulla al fisco in futuro. Bene, allora in verità bisogna distinguere tra la dilazione fatta con l'Agenzia delle Entrate e fatta presso Equitalia. Ecco. Se si vuole fare una rateazione con Equitalia, quindi quando già il debito ad esempio nei confronti del fisco è diventato definitivo, allora quindi quando proprio la riscossione lo reclama perché non è arrivato? Esatto, allora bisogna aspettare necessariamente la cartella di pagamento, cioè non lo posso fare prima la richiesta di dilazione, aspetto la cartella di pagamento e con la cartella di pagamento poi mi recherò presso Equitalia, compilerò quella domanda a seconda se il debito supera o non supera i 50.000 euro, quindi con la documentazione richiesta e Equitalia procederà quindi con la concessione della dilazione. Se la faccio presso Equitalia la dilazione, Equitalia in verità mi dovrebbe calcolare e ha tutto l'interesse a farlo, sia gli interessi eventualmente di mora che pagherò, lo ricordiamo, solo se deciderò di mettermi in regola dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella scattano gli interessi di mora, altrimenti non scattano. Quindi supponiamo che io riceva una cartella di pagamento, se dopo 10 giorni mi presento da Equitalia e dico voglio avere una rateazione, quindi voglio pagare a rate, gli interessi di mora in quel caso non scatteranno perché non sono ancora trascorsi i 60 giorni, scatta però l'8% dell'atto della riscossione dovuto su tutti gli importi. Se invece però prima che riceva la cartella di Equitalia ricevo ad esempio un avviso bonario dall'Agenzia delle Entrate e decido di mettermi in regola con l'Agenzia delle Entrate, come ha fatto il precedente ascoltatore, anche lì posso direttamente andare in Agenzia delle Entrate, ho tutto l'interesse a farlo perché anche lì mi sarà data una dilazione, 8-12 rate trimestrali, dovrò essere puntuale con i pagamenti, lì non pagherò certo gli interessi di mora e nemmeno l'aggio della riscossione. Ma dottoressa Cerno, esiste una statistica triste, che non è che sia particolarmente avvincente, qualora ci fosse, di quali strade vengono prevalentemente scelte dai contribuenti in difficoltà? Aspettano che arrivi proprio la riscossione a bussare alla porta o comunque si fa un tentativo anche preventivo, quindi si va prima all'Agenzia delle Entrate? Guardi, purtroppo dalla mia esperienza vedo che la maggior parte delle rateazioni vengono fatte con Equitalia. Questo in verità perché? Perché il contribuente di solito per non sostenere giustamente i costi anche diciamo per un professionista che poi dovrebbe recarsi presso l'Agenzia delle Entrate cerca di aspettare pensando così ingenuamente di risolvere il problema, cioè col tempo che passa. In verità io consiglio sempre a tutti comunque di intraprendere la strada della rateazione direttamente con l'Agenzia delle Entrate, altro per abbattere i costi diciamo dell'aggio della riscossione e quindi cercare con loro di trovare una mediazione sia diciamo attraverso un patteggiamento che si chiama diciamo in gergo tecnico accertamento con adesione e sia invece quando proprio l'importo è definitivo e dovuto comunque chiedere all'agenzia direttamente una rateazione perché lo ricordo è da qualche anno che non si devono presentare garanzie, fideiussioni anche per fare una rateazione con l'agenzia. L'abbiamo fatto. Quindi sembra strano, ma con l'agenzia delle entrate si risparmia. Sì. Detta così sembra una cosa. E si poi può persino dialogare un po'. Pensa che la dottoressa Cerno ha parlato anche di avviso bonario. Sì. Ecco, sembra no, che strida un po' con l'agenzia tipo, delle entrate. Ce n'è anche uno della schiena, mi stai dicendo? No, ma ci sono degli avvisi che la nostra schiena ci manda che noi bonariamente pensiamo non siano nulla, in realtà sono dei campanelli d'allarme. Eccolo ma là. Di questo parleremo tra poco con il nostro esperto, perché adesso vogliamo dare la parola a Matteo. Sì, che ci chiama, che ci chiama dalla provincia di Foggia. Matteo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Matteo, perché si dice fuggi da Foggia? Scusi, poi le lascio subito fuggi da Foggia, non per Foggia, ma per i foggiani che stanno a Foggia. Ah, ok, va bene. È un buon detto. Io sono dalla provincia, di un paesino un po' più piccolo, sul mare. Allora, a me mi è stata notificata che io non ho ricevuto un avviso di pignoramento dal conto corrente per una tassa dei tributi non pagata dal 2007. Io alla data della notifica non ero in casa, il notificatore non mi ha comunicato niente e mi è arrivato direttamente il pignoramento del conto corrente. A che io vado al comune e cerco di rateizzare questa somma senza fare cause perché magari il 2007 poteva certo. andare. Ma no, Matteo, mi scusi, è andato al comune perché era la tassa dei rifiuti, no? Che non aveva pagato. Sì, era una tassa dei rifiuti. Per rateizzare, perché loro mi avevano detto che si poteva rateizzare, io ho rateizzato 1.300 euro in 13 rate, 100 euro a rata. A che ho chiesto, dopo un po' che ho pagato la prima rata, ho detto: ma scusate, quando sbloccatemi questo conto, altrimenti io dovrei lavorare in nero per poter pagare anche loro. Come faccio a pagare se non posso prendere i soldi del conto? E loro mi hanno detto che mi liberano il conto quando finisco di pagare l'ultima rata, quando sentendo un po' dal paesino gli altri li hanno liberato subito. Matteo, lei intanto faccia una cosa, intanto ci scriva in privato, ci dica il nome della banca, perché mi piacerebbe indagare su questa cosa. Chiedo però conferma anche alla dottoressa Cerna, addirittura il blocco di un conto corrente per 1.300 euro di tassa dei rifiuti. E com'è possibile che dal comune possa partire insomma un'iniziativa così dirompente poi nella vita del nostro ascoltatore, del nostro contribuente, dottoressa Cerno? Guardi, non è una questione del comune, in verità adesso io non so, perché di solito ancora moltissimi comuni hanno demandato ad Equitalia il compito di effettuare la riscossione. Perché se per ogni tassa dei rifiuti non pagata si bloccasse un conto corrente, qua avremo la paralisi in Italia, lei lo sa. No? Sì, onestamente però adesso non voglio mettere in dubbio quello che dice il nostro radioascoltatore, tuttavia ci sono dei limiti per effettuare queste misure, questo pignoramento. Come le dicevo, negli anni scorsi abbiamo assistito comunque a delle leggi che hanno favorito in qualche modo il contribuente debitore che voleva mettersi in regola. In linea di principio però le dico questo, che quando si attivano misure come il pignoramento o l'espropriazione immobiliare, quindi queste misure che noi diciamo in gergo tecnico sono esecutive, quindi sono più pesanti, difficilmente si ritorna indietro. Equitalia o il comune aspetterà comunque che tutto il debito venga saldato per poter poi successivamente togliere quella misura esecutiva, insomma. Certo, però insomma bisognerebbe indagare un po' più a fondo. Sentirei velocemente Bruno da Ferrara, l'ultima domanda per questo spazio dedicato al fisco rate, ma sicuramente ci ritorneremo perché poi qua ogni giorno c'è qualche notizia che attira, Nicoletta, la nostra attenzione su questo argomento e ci piega un po' anche la schiena e le spalle. La sentiamo proprio tutta qui. Tutta lì, guarda. Bruno da Ferrara, buongiorno, rapido, grazie perché stiamo chiudendo. Rapidissimo. Grazie. Ho avuto un avviso bonario per contestazione dell'aliquota di tassazione a fronte di una liquidazione di un fondo pensione. Ha contestato l'aliquota del sostituto d'imposta, che è una primaria banca italiana. Vengo dunque. E se la sono presa con lei? Per evitare il pignoramento ho chiesto una rateizzazione dell'imposto. Stranamente non vedo, ho proprio quel prospetto di piano di ammortamento, non viene indicato nel TAN e nel TAEG. Ma non è un prestito, Bruno, questo? Non so, adesso io sono anche un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, ma dottoressa Cerno, riusciamo intanto a chiudere velocemente con una risposta a Bruno? Sì. Allora, l'Agenzia delle Entrate, come le dicevo, concede la dilazione in 8-12 rate trimestrali e dipende dall'importo, e nelle rate verrà calcolato soltanto l'interesse da dilazione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, che in gergo tecnico vuol dire gli interessi che avessi dovuto pagare per il fatto che è trascorso del tempo. Ma nel piano di ammortamento Bruno trova indicazione chiara di queste voci, perché lui si aspettava addirittura un TAEG e un TAN, però non è possibile neanche che trovi queste che lui cerca. Ed è giusto che non le trovi. Gli interessi sì, le sanzioni sì, ci saranno le sanzioni, gli interessi e la rata poi relativa alle imposte da versare. Allora Bruno, ci scriva, magari così le mettiamo per nero su bianco la nostra risposta, che abbiamo dovuto appunto adesso esprimere in termini molto veloci, ma noi salutiamo e auguriamo buone vacanze alla dottoressa Cerno. Grazie. Grazie. E ci sentiremo senz'altro presto. Cuore e denari. 3 mesi dopo, Fantozzi, di fronte all'immagine dell'inizio di un tragico declino fisico, decise di dimagrire. Dopo 90 anni di vita sedentaria, la sua parola d'ordine fu: Moto, dovrei fare del moto. Porca miseria, guarda come mi sono ridotto. Non entro più nei vestiti, non entro. Sì, ma con cautela, Ugo, con prudenza, alla tua età. Ma che prudenza, ma che età? Tina! Eh? Il colpo della strega! Oh, santo cielo, Ughino! Ho appena finito di dirtelo! Oddio, mi sono bloccato! Dove ti fa male? La schiena! Qui? Sì, hai. Santo Dio, Ughino! Lo sport non lo puoi più fare! E poi a me piace anche così! A volte, care amiche, cari amici, mandare in tilt la nostra schiena basta un movimento brusco, come è successo al povero Fantozzi, ma a minacciare il benessere della nostra schiena intervengono anche le preoccupazioni, lo stress accumulato, le tensioni, il nostro modo di prendere la vita e anche le tasse, perché sulla schiena noi portiamo il peso della nostra quotidianità, tanto che quando ci sentiamo emotivamente stanchi, siamo giù di tono, siamo provati, noi cambiamo postura, non ce ne rendiamo conto, ma le spalle da larghe, belle aperte, diventano chiuse, un po' ricurvi, e l'armonia, la flessibilità, l'eleganza, vogliamo dire, del nostro corpo, perché ogni corpo può essere elegante, ha una sua bellezza, diventa un corpo rigido, è un po' quasi respingente. Allora, questo perché ormai è provato, la mente, lo sappiamo, condiziona il corpo e il corpo condiziona a sua volta la mente, perché non sono, come abbiamo detto tante volte, due entità distinte, ma sono soma e psiche, due facce della stessa medaglia. Per questo la medicina psicosomatica invita a considerare il disagio fisico, e oggi parliamo di quel peso che avvertiamo alla schiena, quel dolore, come la rappresentazione corporea di un contemporaneo disagio esistenziale, più o meno consapevole. Io capisco che di primo acchito questa relazione può lasciare perplessi, ma in realtà questa viene giustificata dallo stretto collegamento neurofisiologico che esiste tra tensione emotiva e tensione muscolare. Allora, se la vostra schiena porta tanti pesi e ha tanti pensieri, restate con noi. Oggi, come promesso, dopo aver parlato di tasse e di rateizzazione di tasse, proveremo a sciogliere le tensioni muscolari, che sono spesso frutto, spesso non sempre, di tensioni emotive. In studio con noi è tornato a trovarci il professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale all'Università di Lugano. Professore, buongiorno. Ma buongiorno a voi, grazie di avermi rinvitato. Intanto già ci sentiamo meglio, vero? E guardami. Io e Deborah abbiamo già subito aggiustato un po' la nostra. Io poi, che sono alta, tendo ad accasciarmi su me stessa, proprio a ritornare in posizione fetale a partire dalle spalle. Come ci trova? Ma sempre bellissima. Brava. Cosa. Lo paghiamo, vi trovo per dire. Bene, dopo. Dopo caffè, brioche, cappuccino. Allora, professore, se la schiena fosse una persona e dovessimo descrivere il suo carattere, diremmo che è una persona emotiva, fortemente emotiva, condizionabile. Assolutamente sì, con un animo nobile sicuramente. E sulla schiena noi riusciamo, è la vittima un po' di quello che noi viviamo tutti i giorni e soprattutto di come lo viviamo. Sicuramente voi parlavate di tasse prima, non è tanto la tassa in sé che va pagata, ma quanto forse il sentirsi impotente di fronte a uno Stato che... Sì. Ecco, al di là adesso di ogni considerazione politica o meno, sto facendo una considerazione esclusivamente sulla... oggettiva, direi. Per cui questa mancanza di libertà noi la viviamo sicuramente con due problematiche, una fisica e una chimica. Anche dal punto di vista chimico noi abbiamo qualche tipo piccolo problema. Per esempio l'aspetto del pH, tutti sappiamo cos'è il pH, è l'indice che ci dice se siamo più o meno acidi sotto ogni punto di vista. L'acidità delle nostre urine, del nostro sangue, del nostro corpo, dei nostri organi, è attaccata sicuramente da un nostro non star bene da un punto di vista psicologico, quindi il chiudersi attorno a noi stessi, e quindi il pH tende ad abbassarsi un po'. Questo non si permette... stressa e si abbassa. Ah, direi proprio di sì, diventa un pochino più acido, noi diventiamo forse un po' più acidi. E sui muscoli questo non fa molto bene, perché consuma molto prima tante materie prime molto importanti, il potassio, il magnesio, che tutti noi conosciamo. Questo è un problema chimico. Professore, noi oggi parleremo essenzialmente della schiena, di quelle tensioni che avvertiamo lungo tutta la schiena o in punti specifici, a partire naturalmente dal collo, la famosa cervicale, no? La schiena è quella che possiamo considerare il retro, è l'altra faccia della medaglia, la parte che noi non vediamo ma che sentiamo, e spesso mi sembra con una sensibilità differente rispetto a quella che abbiamo nei confronti delle altre parti del corpo, che abbiamo portata di sguardo, ad esempio un braccio, la gamba, perché tutto quello che non riusciamo a controllare con la vista, pensateci un po' se anche voi fa questo effetto, a me questo fa, tutto quello che non riusciamo a controllare con la vista e che ci sfugge, ci preoccupa di più. E la schiena è sicuramente una parte del nostro corpo che noi possiamo solo sentire, ascoltare, ma non possiamo vedere se non facendo delle acrobazie davanti allo specchio. Eh sì, non abbiamo il controllo diretto della vista. Infatti. Per cui questa mancanza di controllo non ci fa stare molto bene, se ci soffermiamo a pensare questo. E ne abbiamo a volte un po' paura, proprio perché il non vedere, non conoscere da questo paura, anche perché non sappiamo molte volte che cosa fare. Arriva questo dolore all'improvviso, non possiamo fare altro a volte, non conoscendo i meccanismi che portano al mal di schiena, che rifugiarsi poi sull'antidolorifico, sull'antinfiammatorio, che non sempre fanno passare il mal di schiena, soprattutto se il mal di schiena è di questo tipo, è di questa origine. Addirittura in alcuni tipi di mal di schiena, soprattutto quelli della zona bassa lombare, questi farmaci, se esageriamo perché vediamo che non passa, ne prendiamo tanti, diventano effettivamente addirittura un... è il gatto o il cane che si morde la coda? Io penso che è il gatto. Okay. Il cane che si morde la coda, sì, vero, perché il gatto non molle, il gatto. 800-24-0024, quizzettone, cane, gatto, pappagallino. Allora, abbiamo già i nostri ascoltatori che forse dopo aver sentito il peso delle tasse sulla loro schiena che tra l'altro quello non c'è, come dire, antinfiammatorio, antidolorifico che tenga, perché no. Quello proprio ce lo portiamo sempre appresso un po' come l'avvoltoio sulla spalla. Però posso fare uno spottone, però c'è cuore e denaro. Guarda, per l'età, eh? Esatto, hai fatto bene, sono completamente dalla tua parte in questa dichiarazione. Dove andiamo? Andiamo a Brescia ed è un'ascoltatrice oggi a sollevare la questione dei suoi problemi di schiena. Chiara, buongiorno all'800-24-0024, ci dica. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto sono assolutamente d'accordo con quanto avete detto prima, con quanto ha detto Nicoletta e anche il dottore, rispetto alla componente comunque ansiosa delle contratture a livello della schiena, soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, zona spalle, cervicale, collo. Quindi no, quello che non si vede, anche a livello ansioso, no, quello che non si sa, quello che potrebbe accadere. Poi volevo fare una domanda invece più diretta. Rispetto a cosa deve fare una persona, quali sono i passi che deve intraprendere qualora, come nel mio caso, avvertisse queste costanti tensioni a livello cervicale, soprattutto collo, sternocleidomastoidei molto contratti. Sicuramente c'è una componente ansiosa, quindi stressogena, e anche una componente probabilmente fisica che poi va ad accumularsi. Quindi quali sono i passaggi? Cioè, dopo aver fatto una visita psichiatrica e aver rilevato quali sono le problematiche, ci sono diverse possibilità poi terapeutiche, quindi il chiropratico, l'osteopata, il massaggio connettivale, tante tecniche. Quali sono i passaggi più indicati per andare a risolvere la questione? Chiara ha fatto una domandona. Chiara, noi siamo veramente fiere di lei, orgogliose. È stata anche molto chiara, sì, devo dire. È stata chiara nel nome, di esatto, nome di fatto. Nell'esprimere i sintomi in modo tale che chiaramente quale terapie sono più semplici da. Vede Chiara, secondo me, come in ogni parte del corpo, anche nelle zone che lei ha citato, quindi quelle che scendono dal collo verso la parte anteriore, piuttosto che nella parte posteriore, dove abbiamo due muscoli grandissimi che sono i trapezi, dobbiamo sempre individuare perché questi muscoli sono sotto stress. Il dolore arriva in quelle zone perché i muscoli, noi stiamo chiedendo ai muscoli un po' troppo. I muscoli in fondo che cosa sono? Volendo banalizzare, ma per essere chiari, i muscoli sono degli elastici che sanno fare una sola cosa, ma la fanno benissimo, ma solo quella. Sì. Sanno contrarsi e sanno allungarsi. E non è poco, perché poi è il loro insieme, la loro, il loro possiamo dire lavoro di squadra che ci permette di tutti i nostri movimenti e poi anche di star bene. Quando noi chiediamo un po' troppo, perché chiediamo a questi muscoli di contrarsi per troppo tempo senza mai farli riposare o senza dare loro appunto magnesio, potassio che possono aiutare a ossigenare il muscolo e farlo lavorare meglio, soprattutto quando gli chiediamo di lavorare non nel loro assetto normale. Voi immaginate un elastico che invece di tirarlo dritto iniziate a curvarlo e tirarlo male, farlo strizzarlo come uno straccio. Certo. Ecco, questo noi a volte facciamo con i muscoli, soprattutto i muscoli del collo, che sono quelli che ne risentono e sono quelli che poi ci fanno star male. Cuore e denari. La schiena è la parte che non puoi vederti, quella che lasci agli altri. Sulla schiena pesano i pensieri, le spalle che hai voltato quando hai deciso di andartene. Margaret Mazzantini. Bellissima, vero Deborah? Bellissima, è una donna eccezionale d'altronde. Che cosa è vero, dire? è vero e ci dà l'opportunità per introdurre il tema di cui ci occuperemo, continuiamo ad occuparci in questa seconda parte di Cuore e Denari. Dopo aver parlato di tasse parliamo di schiena, lì spesso si accumulano le tensioni, le preoccupazioni, le tasse sicuramente ce ne danno, ma non sono solo le tasse, sono problemi di lavoro, la salute. Gli affetti la nostra quotidianità nel suo complesso. 800 24 00 24, oggi insieme al professor Di Pietro proveremo a individuare le tensioni e proveremo a scioglierle. Prima di rispondere a Chiara, che ci ha chiesto un aiuto per la sua cervicale e che ha già avuto una risposta parziale dal professor Di Pietro, perché il professore ci ha spiegato perché noi avvertiamo questa tensione, perché il nostro muscolo invece che stringersi e tirarsi e allentarsi, in qualche modo noi riusciamo ad attorcigliarlo, un po' come lo mandiamo in torsione, come proprio il panno, quello dei pavimenti, e naturalmente si lamenta. Tra poco il professor Di Pietro darà quindi delle indicazioni molto mirate a Chiara e alle persone che come lei si trovano con il collo bloccato, ma professore, non tutti noi abbiamo la sensazione di avere mal di schiena, perché anche se è un disturbo molto diffuso non sempre la schiena urla. La schiena però ci manifesta il suo malessere anche in modo molto delicato, magari ci accorgiamo che abbiamo un appesantimento alla schiena quando ci alziamo dalla sedia, oppure quando proviamo a guardare in alto o a piegare il collo. Quindi non sono dei dolori che noi avvertiamo ma costantemente. Ma avvertiamo solo in un momento, in seguito magari ad un gesto, ad un cambio di posizione. Vogliamo allora fare un pochino un check della nostra schiena. Sicuramente sì, sicuramente sono dolori che arrivano quando noi mettiamo in torsione il muscolo che ha qualche problema proprio attraverso la nostra postura. Dobbiamo subito fare però un distinguo tra due tipi di dolore, il dolore verticale e quello orizzontale. Okay. Se avete un dolore verticale che parte da un punto e scende, non ascoltate questi consigli, andate immediatamente dal vostro medico curante e saprà consigliarvi, perché potrebbe non essere solo il muscolo. Okay. Se il dolore invece è orizzontale, è una barra, quindi sì, noi sentiamo una barra che prende i nostri muscoli della schiena nella parte, sì, alta, che sono i trapezi, o lo sentiamo nella zona centrale, mm, sembra, oddio che mal di reni, sì, no, i reni non c'entrano, state tranquilli, o come invece spesso più accade, una barra nella zona lombare, sì, allora dobbiamo cominciare a pensare che cosa può spingere nel nostro corpo o farci torcere. Se è nella zona alta, la torsione arriva sicuramente dal cranio. Uh-huh. Nel cranio che cosa abbiamo? Abbiamo i denti, abbiamo le orecchie, abbiamo gli occhi, sì, quindi bocca, orecchie, occhi. Se sono gli occhi è perché magari stiamo portando un paio di occhiali che non sono adeguati e quindi andiamo dall'oculista, dal medico oculista e ce li facciamo controllare. Quindi se avete cambiato occhiali, avvertite mal di schiena, le due cose potrebbero, certo, essere in relazione. O forse è il momento di cominciare a portare gli occhiali. Oppure li abbiamo e non li portiamo. Perché? Perché quando noi mettiamo a fuoco, immaginate le macchinette per fare le fotografie, sì, quelle che hanno lo zoom automatico, lo zoom, mm-hmm, che va avanti e va indietro a secondo della lunghezza, della lontananza di ciò che dobbiamo vedere. Noi non abbiamo gli occhi che escono, quindi dobbiamo mettere a fuoco con la convergenza degli occhi. Se non convergono bene, il cranio si deve spostare, deve ruotare verso destra o verso sinistra per mettere a fuoco bene. E questo che cosa comporta? Un movimento continuo del cranio che può portare dei problemi ai muscoli. Quello che dicevamo prima, il muscolo gli facciamo fare un movimento che non è suo, è continuo. Degli occhi. L'udito la stessa cosa, se non sentiamo bene da entrambe le orecchie dobbiamo ruotare a destra o a sinistra secondo l'orecchio che ci sente meglio per sentire meglio. La bocca, come abbiamo già più volte parlato, abbiamo dedicato una puntata a cui possiamo rimandare i nostri ascoltatori. Sì, ricordiamo che produce 70 kg al centimetro quadrato di forze, prendendo questa forza. Tu ci pensi, 70 kg sono... Mi fate la proporzione quanto? 70 kg al centimetro quadrato, per intenderci, se noi prendiamo dei fili di acciaio ogni centimetro quadrato e gli appendiamo delle persone adulte e li tiriamo su tutti insieme come massimo, e ovviamente non facciamolo, insomma, ci pensano già al circo a fare queste cose. Quindi mi è piaciuta molto questa distinzione tra dolore verticale e dolore orizzontale. Andiamo a rispondere a Chiara. Chiara si sente tutte queste tensioni a livello del collo, quindi sì, forse no, come lei ha... Sì, vediamo nel cranio cosa non funziona, se sono i denti che non sono perfettamente in asse. E allora facciamo un esempio facile. Se Chiara o le persone che hanno i problemi di Chiara, chiudendo gli occhi, sentono un beneficio e un sollievo, evidentemente andrà subito dall'oculista. Se mettendo una matita tra i denti, da canino a canino, inizia a sentire piano piano, io vi fotograferei voi due, vi farei vedere ai radioascoltatori. Oltretutto noi non abbiamo neanche mal di schiena, per quale motivo dobbiamo fare i test, così per verificare voglio se dire, ce l'abbiamo. Ai radioascoltatori che le due giornaliste stanno mettendo una biro e provando se va meglio. È vero? Funziona? Funziona. Perché rilassiamo. Non faccio parlare. E comunque ha detto la biro, noi abbiamo anche le penne sbagliate in bocca. Professore, ci scusi. Ma no, queste intemperanze. Anzi, è giusto così. Quindi primo test, chiudiamo gli occhi. Il secondo proviamo a mettere la biro tra canino, sì, e canino. Vediamo se qualcosa riusciamo a ottenere come beneficio. In quel caso, a seconda di che cosa abbiamo stimolato, sappiamo se andare dal dentista agnatologo piuttosto che dall'oculista. Mm-hmm. E questa è nella zona alta, quella di Chiara. Quindi io a Chiara direi sicuramente di fare di questi provare piccoli due test. Però ci chiede Stelvio, ci manda un messaggio al 349-238-6666 e ci dice adorabili, esatto, leggi cosa ci dice. E dai che adesso non lo sto trovando. Eccolo qua, i fanghi per cervicale e schiena vanno bene quando, professor Di Pietro? Benissimo, allora se c'è un'infiammazione conclamata, i fanghi non fanno per niente bene se sono fanghi caldi. Sì. Il problema non è il fango in sé e cosa contiene, ma la temperatura con cui viene messo. In pratica, se ho un'infiammazione e porto del caldo, l'infiammazione va a nozze e può anche aumentare, ma può aumentare in modo subdolo. All'inizio sento sollievo perché sto riscaldando il muscolo, sì, per cui sto bene i giorni in cui li sto facendo, vado a casa, dopo una settimana mi torna il mal di schiena e allora viene da dire, ah che bello, se facessi fanghi tutti i giorni starei bene. Non errore, è proprio così, non è proprio così. Quindi parliamo col medico curante prima, verifichiamo che non ci sia un'infiammazione in corso, dopodiché possiamo fare i fanghi tranquillamente. Dove andiamo? Allora, scegliamo la località che più ci piace questa mattina. Andrei a Gianni da Roma, perché ha un disturbo fresco, direi. Gianni, buongiorno. Buongiorno e grazie per la considerazione. Grazie a lei, grazie voglio a lei per la sua. Voglio essere un po' spiritoso all'inizio per rallentare anche quelli che sono i problemi psicologici. Diciamo, come la dottoressa Cerna, diciamo che ho un doloretto alla parte bassa della schiena. Questo dolore si accentua quando faccio delle torsioni, quando sto seduto e mi alzo e quando mi abbasso. Dico qui, voglio dire che comunque io frequento palestre dal lontano 1978, non sono un frequentatore assiduo, ma frequento le palestre e faccio... Però non è neanche un pigrone, insomma, ecco. Faccio giochi, no, io sono un pigrone, poi io sono del tropico del cancro, quindi io so, i cancri sono proprio pigroni, vinco la mia pigrizia perché so purtroppo che... Insomma, si impegna, fa cose e fa pesi. E vede gente. Però la sua schiena si lamenta, Gianni? E in quale momento? Perché questa è un'altra indicazione, ecco, che voglio dire. Stavo dicendo, appunto, quando sto seduto e mi alzo, oppure quando faccio le torsioni, quando sono disteso e mi alzo, e quando mi abbasso, la parte bassa della schiena mi duole. Ma questa è già la seconda volta che mi succede. Poi sto un po' di tempo fermo, riposato, non vado in palestra, e questo dolore tende ad attenuarsi. Allora, quando va in palestra porta un bite? Quando fa solleva pesi o altro? No, dunque io faccio, quando vado in palestra intanto faccio all'inizio mezz'ora di tapirulan, poi mezz'ora di cicletta e poi... No, ma Gianni, il bite a cui si riferisce il professor Di Pietro? Sì, sì, esatto. È una specie, sì, di... È un paradenti, paradenti, ma non è così. Serve proprio a non mandare in torsione la schiena, perché se lei ha notato che andando in palestra ha questo tipo di problema, non deve smettere di andare in palestra, ci mancherebbe. Deve solo trovare la giusta compensazione della sua masticazione per poter fare sport. Questa è una cosa che ormai è molto risaputa, lo vediamo anche nei calciatori di Serie A che mettono li troviamo in qualunque di negozio paradenti. Di articoli sportivi, no, va di fatto Pietro. Dal dentista, parliamone col dentista, è meglio perché va fatto, poi si trovano e quelli che vendono in commercio possono andare bene come pronto uso in attesa di farsi vedere dal dentista. 800 24 00 24, diteci anche in quale momento della giornata sentite la schiena o il collo pesanti. Questo è un dettaglio importante, potete come sempre scriverci anche al 349 238 6666. Fantastico il divano per star lì sdraiati avanti alla TV. Il nostro compagno di notte, il materasso, a cui attribuiamo molti dei nostri risvegli dolorosi. Se tu ci pensi, il risveglio è un momento delicatissimo. In quei primi 5 minuti della giornata si gioca un po' tutto il nostro umore. Basta scendere con il piede storto ed ecco qua che la giornata si presenta subito difficile. Alzarsi, lo sappiamo, per alcuni è faticoso, piegarsi è una fatica. Professor Di Pietro, la notte porta consiglio e spesso porta anche il mal di schiena. Sbagliamo posizione, colpa del materasso, del cuscino e invece ancora una volta delle preoccupazioni. C'è una stretta relazione, l'abbiamo detto in apertura, e questo è un po' il fil rouge della nostra chiacchierata di oggi, tra tensione emotiva e tensione muscolare. Insomma, i pensieri che affollano la notte la nostra mente potrebbero poi al mattino renderci così rigidi e poco propensi ad affrontare con il giusto passa la giusta apertura, mi riferisco alle spalle, la giusta flessibilità, la quotidianità che ci aspetta. Certo, il materasso sicuramente è imputato in questa situazione, anche se magari a 20 anni con la persona giusta e senza pensieri si può dormire anche per terra e va tutto bene. Il concetto ha detto una persona giusta, intendo sotto l'umidità, però anche da soli. Ma anche da soli, e la persona giusta può essere anche se stessa. È un romanticone, professor Di Pietro, ci piace. Quindi sicuramente non fa altro che un materasso non corretto amplificare dei problemi che ci sono. Però quale consiglio dare per la scelta del nostro giaciglio su cui passiamo più di un terzo della nostra vita, della nostra esistenza? Allora, non deve essere rigidissimo come si pensa. Quando si pensa si ricorda che una volta mettevano addirittura l'asse sotto il materasso, l'asse, perché si pensava che la schiena avesse bisogno di un po' di rigidità. Ecco, la parte inferiore dove poggia il materasso, che sia un po' rigida va bene. Che sia, il problema è proprio da quell'asse che si metteva al nostro corpo cosa ci sta in mezzo. Sì. Deve sicuramente essere morbido e avere la nostra forma. Molto bene vanno quei nuovi materassi che ci sono col memory foam, cioè quella zona che riesce a prendere la nostra forma e a mantenerla, con sotto del poliuretano che va benissimo. Sono i materassi ad oggi migliori per la nostra schiena, così come quelli in lattice per esempio, che sono anche anallergici, vanno benissimo. Per quanto riguarda il cuscino, che sì, di solito i pazienti mi chiedono in che posizione devo dormire con quale cuscino, qui il consiglio non si può dare, a meno che ci si inchiodi e ci si incolli, sì, perché durante la notte ci muoviamo e quindi come si fa a dire a una persona sta in quella posizione quando poi vuole muoversi? Il corpo sa sempre in che posizione mettersi. Se ci si sposta durante la notte perché il corpo ha bisogno di spostarsi, lasciatelo fare. Dormire senza cuscino è... Questa è una cosa personalissima, perché non è soltanto vedere com'è la curva della nostra cervicale, è molto più complesso, è la somma di tutte le forze che noi abbiamo nel nostro corpo, perché quando siamo sdraiati, in quel momento il nostro peso non è più concentrato esclusivamente sui piedi, dove noi scarichiamo i nostri 60, 70, 80 o come me 100 kg sui due piedi, ma è distribuito su tutta la nostra lunghezza. Quindi grosse forze di peso discendenti non ci sono, avvengono le torsioni, quelle di cui parlavamo con la prima ascoltatrice che chiamava, sono le torsioni che vengono al pettine, soprattutto quindi le torsioni date anche in questo caso dalla bocca. Le torsioni tornano sempre al pettine, cara mia, stai attenta. Andiamo a Ciro da Pesaro, avevamo anche un'ascoltatrice con una domanda interessante che adesso però riacciufferemo. Ciro, buongiorno, eccola là, Patrizia, mannaggia, è ritornata adesso. Andiamo a Ciro. Allora, volevo chiedere questo. Io dopo 8 ore di lavoro filate in fabbrica, e tutti i giorni dopo una doccia faccio un riposino di mezz'ora, tre quarti d'ora. Sì, bravo. Lo sai che è il riposino ideale? Ciro, esatto, lei è bravissimo. No, non deve essere troppo lungo, eh? Bravo. No, non sono troppo lungo. Quando mi rialzo, quando provo a rialzarmi, ho dolori lancinanti al centro della schiena. Io li identifico centro, passa schiena. Proprio che non riesco a tirarmi su e mi tiro su a fatica. Lei soffre di stomaco, Ciro? Di stomaco no, non direi. No, non ha mai un senso di pesantezza dopo mangiato? Beh, qualche volta sì, però non direi che sia una cosa costante. Ecco, lei adesso in questo momento non sta guidando, vero? Io adesso in questo momento sono seduto in macchina. Beh, sì, ecco, guida. Però, con l'auricolare. Benissimo, benissimo. Dovrebbe prendere la mano libera, magari se vuol fermarsi lo faccia pure. Anzi, si fermi. Ecco, che sarebbe meglio. E comunque, intanto le spiego, intanto per gli altri ascoltatori, mentre lei si ferma, con un dito, possibilmente il pollice di una mano, destra o sinistra, sì, spingere al centro dove c'è lo stomaco, dove finiscono le coste, dove finisce lo sterno, esatto, e spingere e dirmi se sente un dolore di pressione, se sente bruciare o se sente un come un chiodo che sta entrando nella sua pancia. Allora, io mi fermo fra 200 metri, se mi date... Ah, vabbè, allora lo spiego, poi lei lo fa con calma. Sì, allora, intanto che Ciro si ferma e fa, noi siamo pronti con il pollice, giusto? Assolutamente. Sotto lo sterno. Sotto lo sterno, segniamo lo sterno. Dai, aspetta, lo facciamo anche io e Deborah. Benissimo. Povero professor Di Pietro, quanto le deve vedere stamattina? Spingiamo. Allora, sì. Pancia, come spingete, si dice pancia, molle. Rilassate, non vi preoccupate. Spingete, fate una piccola rotazione e ditemi se avete dolore. No, ringraziando il cielo, no. No, infatti voi non avevate il dolore nella zona centrale della schiena. No. Benissimo. Ok, mentre. Mentre nel caso del nostro radioascoltatore potrebbe essere il caso di verificare questo, se magari ha mangiato prima di fare riposino di mezz'ora, cioè se c'entra in qualche modo lo stomaco. E se ne accorge, se alla pressione avverte dolore. Avverte dolore, in quel caso il medico curante è lì pronto ad accoglierlo. Saprà quello per che intenderci, deve... quello che volevo far capire in questo è che i nostri organi interni spingono sulla schiena, prima addirittura di farci la pancia gonfia. gonfia, per esempio, è uno dei grossi problemi del mal di schiena. Io penso in studio di vedere almeno il 70-80% del dolori che sono nella zona lombare a barra, sì, dipendono provocati esclusivamente dall'intestino. L'intestino che non funziona perché le tasse sono da pagare, quindi va un po' per aria anche l'intestino, magari un po' di candidosi, e ce ne accorgiamo come? Quando dopo cena la pancia si gonfia come se avessi mangiato un vitello, in realtà ho mangiato anche poco. Ecco, tutti questi gonfiori, l'intestino che non è regolare, quindi l'intestino regolare intendiamo una volta al giorno con le feci formate, sì, per essere, così ci togliamo, ecco, il problema dalla definizione, diciamola tutta come si suol dire. E in questo modo, ecco, se non è proprio così e la lingua inizia a essere bianca eccetera, porta al mal di schiena, perché il gonfiore dell'intestino tende ovviamente a farci assumere una postura della lombare che non è corretta. Le schiene delle donne sono più belle di quelle degli uomini, assolutamente più armoniche, ma a parte questa battuta che non è neanche venuta bene, ma quello che volevo dire è che tra schiena maschile e schiena femminile ci sono delle differenze e ci sono dei nemici insospettabili della schiena femminile che possono metterla in crisi. Mi riferisco, professor Di Pietro, alle reggiseno. Reggiseni non adeguati, con bretelle troppo tirate, coppe non conformi, portano a una tensione. Lei diceva appunto sempre un dolore a striscia, a barra, quindi un dolore che ci rassicura, ma di cui talvolta non capiamo l'origine, e l'origine in fondo siamo noi stesse che sbagliamo. La scelta del reggiseno deve essere fatta da un punto di vista estetico. Sono d'accordissimo, come uomo anche ovviamente, ma che sia bello, ma che sia soprattutto confortevole, ricordandoci una cosa: normalmente il seno destro e il seno sinistro non sono uguali, per cui si rischia di essere, per farli stare bene tutti e due, uno di comprimerlo un po' troppo, e quindi si va in rotazione, non deve sentirsi addosso il reggiseno. Prima c'erano, ti ricordi? Posso fare una domanda sul reggiseno? Sul reggiseno, sì. Io penso che il professor Di Pietro sia molto quello contenitivo per la palestra, professore, perché appunto ho notato che in relazione a quello che metto, io faccio delle attività d'urto, step, queste cose qua, in realtà ho proprio un fastidio, quello particolarmente stretto che mi contiene di più, perché ovviamente con l'urto ho bisogno di quella sensazione di contenimento, in realtà mi va sulla schiena. Lei pensi che la sua schiena è attraversata da muscoli come se fossero le corde di un bellissimo violino, quindi quando lei le suona... Io ti avrei detto un po' come l'autostrada, invece vedi le corde di un bellissimo violino. Te l'ho detto che è romantico, con le donne ci mancherebbe. E quindi lei, mentre sta suonando questo violino, a un certo punto mette una barra sulle corde, non suona bene, non deve avvertire la presenza di questa costrizione. Devo buttare quello che mi fa male, ho capito. Allora, mi dice Massimo, che ci scrive al 349-238-6666. Questo che dite è pura verità, ma è territorio dell'osteopata. Ma noi ce l'abbiamo, un osteopata qua, in carne e ossa. Massimo, stia sereno. Andiamo a Patrizia, che ci chiama da Bergamo. Che Patrizia, sta lì da un po'. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno, complimenti, siete bravissime, nonché utilissime. Sì. La cosa che vorrei mi aiutasse a scoprire è questa: io da qualche mese io non soffro di mal di schiena, faccio lavori anche pesanti e tratti, ma senza nessun disturbo. Bene. Vado a letto la sera, mi addormento senza nessun problema, verso il mattino, verso le 4 mi sveglio, perché io mi muovo molto la notte, non riesco più a muovermi, ho un dolore lancinante al sacro e faccio fatica a girarmi, poi mi alzo, vado e non ho più nessun dolore, dura un po' di mesi. Allora, se volete sapere la risposta del professor Di Pietro, andate sulla pagina di Cuore Denari. Il professor Di Pietro scriverà il caso di Patrizia, voi potrete leggerlo, e quindi se vi riconoscete nella sua situazione troverete le indicazioni del professor Di Pietro, che ringraziamo per essere stato con noi. È sempre un piacere. Siamo già più dritte e più belle con la nostra schiena stamattina, solo ad averlo ospitato. Allora, a domani, a sempre domani. Più belle. Cuore e Denari.